ci racconti una storia. I racconti di Laura Lorenza Sciolla. La volta scorsa abbiamo parlato della grande dedizione che richiede la pratica della scrittura, un'attività che Gabriel García Márquez definisce addirittura suicida. Ricordate le sue parole? Scrivere libri è un'attività suicida. Nessun'altra occupazione richiede tanto tempo, tanto lavoro, tanta dedizione. Proprio per questo, però, la scrittura riempie la vita, può diventare una ragione di vita, non solo per chi riceve riconoscimenti, ma anche per chi si dedica alla scrittura in solitudine, tra mille difficoltà. Uno straordinario esempio di che cosa significhi dedicarsi alla scrittura ci viene dato da un personaggio della Peste di Camus. Si tratta di Joseph Kahn, un impiegato municipale che coltiva la scrittura come passione segreta, da un lato divorante, dall'altro salvifica. Anche nell'infuriare della peste, Grant dedica tutto il tempo libero alla composizione di un romanzo, nel quale ripone grandi speranze. Ecco come ne parla, confidandosi con il dottor Rieu, il medico che lotta indefessamente contro l'epidemia. «Per fortuna», dice Grant, mentre si riposa col medico in un caffè dopo una giornata estenuante, «per fortuna ho il mio lavoro». Grant intende qui il lavoro di scrittore. «Sì», disse Rieu, «è un vantaggio», e domandò a Grant se fosse contento del suo lavoro. Ebbene, credo di essere sulla buona strada. Ne ancora per molto? Grant sembrò animarsi, il calore dell'alcol gli passò nella voce. Non so, ma la questione non è qui, dottore, non è qui la questione, no. Nel buio, Rieu indovinò le sue braccia che si agitavano. Sembrava preparasse qualcosa che venne all'improvviso, con volubilità. Quello che voglio, vede, dottore, è che il giorno in cui il manoscritto arriverà all'editore, questi, dopo averlo letto, si alzi e dica ai suoi collaboratori: «Signori, giù il cappello!» La subitanea dichiarazione sorprese Rieu. Gli sembrò che il compagno facesse il gesto di scoprirsi, portando la mano al capo e allungando poi orizzontalmente il braccio. «Sì», diceva Grant, «deve essere una cosa perfetta». Sebbene poco informato sugli usi letterari, Rieu aveva l'impressione che la faccenda non doveva svolgersi tanto semplicemente e che, ad esempio, gli editori nei loro uffici non dovevano tenere il cappello in testa. Ma in ogni caso non si sa mai. E Rieu preferì tacere. Poi, mentre i due si incamminano verso le rispettive case, Grant parla della sua ricerca di perfezione nella scrittura. Intanto Grant continuava a parlare e Rieu non tutto afferrava dei discorsi del brav'uomo. Intese soltanto che la sua opera constava ormai di molte pagine, ma che la pena datasi dall'autore per condurla a perfezione gli era dolorosissima. Serate, settimane intere su una parola, e talvolta una semplice congiunzione. Qui Grant si fermò, prendendo il dottore per un bottone del soprabito. Le parole uscivano vacillanti dalla sua bocca sdentata. «Mi intenda bene, dottore, a rigore è assai facile scegliere tra M ed E, tra ma ed E. La difficoltà aumenta con poi e quindi, ma certamente la cosa più difficile è sapere se bisogna mettere una E o se non bisogna». «Sì», disse Rieu, «capisco». A questo punto ci aspettiamo meraviglie dal romanzo di Grant. Ed ecco che cosa scopriamo quando finalmente il buon impiegato legge il manoscritto a Rieu. La voce di Grant si levò sordamente. In una bella mattina del mese di maggio, un elegante amazzone percorreva, sopra una superba giumenta saura, i viali fioriti del Bois de Boulogne. Tornò il silenzio e con esso l'indistinto rumore della città sofferente. Grant aveva posato il foglio e continuava a contemplarlo. Dopo un minuto alzò gli occhi. «Che cosa ne pensa?» Rieu rispose che il principio lo incuriosiva del resto, ma l'altro disse che un tale punto di vista non era quello giusto e batté le carte col palmo della mano. «Questa non è che un'approssimazione. Quando sarò arrivato a rendere perfettamente il quadro che ho nella fantasia, quando la mia frase avrà la stessa andatura di quella passeggiata al trotto, 1, 2, 3, 1, 2, 3, allora il resto sarà più facile e soprattutto l'illusione sarà tale sin dal principio da far dire giù il cappello». Grant non andrà mai oltre la prima frase. La passeggiata della bella mazzola al Bois de Boulogne sarà rimaneggiata infinite volte, discussa con Rieu, privata degli aggettivi, trasformata. A un certo punto, credendosi sul punto di morire di peste, Grant ordina all'amico di bruciare le 50 pagine che contengono gli interminabili rifacimenti delle frasi. Ma insperatamente Grant sopravvive al morbo e, con il ritorno alla vita, riprende a scrivere e riscrivere la frase in un eterno inseguimento della perfezione. Lungi dall'essere patetico o ridicolo, l'accanimento di Grant sull'unica frase del suo romanzo costituisce una splendida metafora del senso della scrittura. Una ricerca inesausta, un inseguimento della perfezione, del quale si dice «per fortuna il mio lavoro», e allo stesso tempo una pena dolorosissima. Proprio in questa contraddizione sta il fascino della scrittura, una contraddizione che ricordo da vicino, quella dell'amore. E te volo sopra il cielo e giaccio in terra, e nulla stringo e tutto il mondo abbraccio. Quale scrittore non riferirebbe al suo lavoro i versi di Petrarca sulle contraddizioni dell'amore? A risentirci. Avete ascoltato? Prof, ci racconti una storia. Un'idea di Adelaide Spallino. Programma curato e condotto da Laura Lorenza Sciolla. Regia di Dario Albertini. Prof. Ci racconti una storia è una produzione Radio Libriamoci Web per Associazione Culturale Clarite. Licenza Creative Commons 2.5. I racconti di Laura Lorenza Sciolla vi danno appuntamento alla prossima settimana.